Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali. Buongiorno, buongiorno! Quindicesima puntata di Restiamo Animali. Per il quarto mese in onda la trasmissione radiofonica per vivere, pensare e agire cruelty free, per affermare la nostra amicizia e fratellanza verso gli altri animali, i viventi non umani ai quali vogliamo che vengano riconosciuti diritti e dignità. Puntata per noi dolorosa, ma importante. 58 sono le specie attualmente cacciabili in Italia, 46 uccelli e 12 mammiferi. Ebbene sì, si parlerà dell'infausto problema della caccia. In redazione quest'oggi, chi urla? Camilla Lattanzi, bramisce Alessandra Giannini, cinguetta Beatrice Montini, garrisce Elisa Moretti, chioccola Giuseppe Coco, bubbola Lorenzo Guadagnucci e trilla Massimo Chiari. Quindicesimo viaggio tra le migliori esperienze animaliste, antispeciste e vegan, a bordo questa volta di un silenziosissimo tappeto volante, magicamente messo a disposizione da Tutunci Amedani Mosen o Amir Giafari, noti spacciatori di nodi dell'entroterra toscano. Entreremo nel magico mondo dei rapaci e dei selvatici accompagnati dagli eroici volontari che a Vicchio gestiscono il centro rifugio convenzionato con la LIPU. La nostra Elisa è stata a Torino e ha raccolto le voci più significative della grande manifestazione contro la caccia che si è svolta domenica scorsa, il 3 giugno. Alessandra e Massimo recensiranno per noi un meraviglioso saggio di Jonathan Franzen. Giuseppe ci delizierà con sapori orientali e odori intensi, di quelli che penetrano negli abiti e nei capelli, per liberarti dei quali l'unica salvezza è una lunga permanenza in un freezer di quelli a pozzetto. Infine, Lorenzo Guadagnucci intervisterà il nostro professor Luigi Lombardi Vallauri, filosofo di riferimento del mondo animalista che nutrirà la nostra anima con una delle sue riflessioni di sostanza, ricche di vitamina B12, di cui peraltro qui in redazione non siamo carenti, alla faccia dei pregiudizi dei non vegan. Giuseppe, DJ vegano e alato, pispigliaci la tua playlist di oggi. Iniziamo con il gruppo vegan che stasera chiuderà la sagra del Seitan. Sono le Fumenta di Aldebaran. Ci porteranno lontani dal mondo con il loro indie folk, facendoci tuffare in atmosfere anni 60 riattualizzate per le nostre orecchie. I rapaci in molte civiltà del passato erano considerati uccelli sacri e Don Cherry ha voluto perpetuare questa tradizione chiamando uno dei figli Occhio d'Aquila. Non sappiamo se la sorte beffarda lo abbia donato di occhiali, ma siamo certi che molti ci ricordiamo del suo salvataggio notturno. Visto che parleremo di volatili rari e in via d'estinzione, non possiamo esimerci dal passare una canzone di un personaggio che ha una voce suadente come un usignolo, che riesce a costruire intrecci sonori ammalianti come ruote di pavone. Qualche anno fa declamava che era diventato un uccello e quindi riusciva a spiccare il volo verso il successo. Vivaldi, nei suoi concerti facente parte della raccolta Il cimento dell'armonia, ha composto dei temi dedicati alla caccia che, ascoltandoli, non ti fanno venire in mente i sadici e sanguinari rituali consoni a questo tipo di divertimento barbaro, ma ad intime riflessioni sullo scorrere della vita. Oggi ne potrete assaggiare ben due. Negli anni 80, un nordico gruppo pop incise una canzone ambientalista proprio sui danni che la caccia provoca. E questo vetusto ricordo sarà presente nella nostra scaletta. I Cure si occupano di una caccia amorosa e, visto l'allegra matrice del gruppo, non c'è da stupirsi che alla fine uno dei due contendenti all'amore muoia. Se abbiamo iniziato lontani dal mondo, chiuderemo guardando il mondo a testa in giù, grazie all'ovo di Peter Gabriel, fatto covare da due delle più belle voci degli anni Ottanta, Elizabeth Fraser e Paul Buchanan. Come al solito potete resettare, riascoltare e ripensare alla nostra playlist e al nostro programma giungendo al nostro blog restiamoanimali.wordpress.com, facilmente raggiungibile anche dalla home page di Controradio. Dedichiamo questa puntata a Rosa Luxemburg, che fu una straordinaria figura di intellettuale e rivoluzionaria. Nata nel 1871, fu un'innovatrice della teoria marxista e della prassi del movimento socialista e comunista. Fu rapita e uccisa nel 1919 da corpi speciali dell'esercito tedesco insieme con Karl Liebknecht. Insieme guidavano la Lega Spartachista, promotrice di moti rivoluzionari. Nel 1917, dal carcere femminile di Breslavia, scrisse una commovente lettera alla moglie di Liebknecht, Sonia, nella quale diede voce al dolore di alcuni bufali brutalizzati dai guardiani del carcere. Ne leggiamo qualche passaggio. Qualche giorno fa arrivò dunque un carro pieno di sacchi, accatastati a una tale altezza che i bufali non riuscivano a varcare la soglia della porta carraia. Il soldato che li accompagnava, un tipo brutale, prese allora a batterli con il grosso manico della frusta in modo così violento che la guardiana, indignata, lo investì, chiedendogli se non avesse un po' di compassione per gli animali. «Neanche per noi uomini c'è compassione», rispose quello, con un sorriso maligno, e batté ancora più forte. Gli animali infine si mossero e superarono l'ostacolo, ma uno di loro sanguinava. Durante le operazioni di scarico gli animali se ne stavano esausti, completamente in silenzio, e uno, quello che sanguinava, guardava davanti a sé e aveva nel viso nero, negli occhi scuri e mansueti, un'espressione simile a quella di un bambino che abbia pianto a lungo. Per il fratello più amato non si potrebbe fremere più dolorosamente di quanto non fremessi io, inerme, davanti a quella silenziosa sofferenza. Oh mio povero bufalo, mio povero amato fratello, ce ne stiamo qui entrambi, così impotenti e torpidi, e siamo tutt'uno nel dolore, nella debolezza, nella nostalgia. Notizie, interviste, attualità. Il 3 giugno si sarebbe dovuto tenere in Piemonte un referendum regionale per la limitazione dell'attività venatoria. Il 4 maggio 2012 però il Consiglio regionale del Piemonte ha votato l'abolizione della legge regionale 70/1996 su cui verteva appunto il quesito referendario, così da rendere inutile la consultazione popolare. Il Comitato referendario Caccia Piemonte ha così convocato per il giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere il referendum una manifestazione nazionale, a cui hanno aderito numerose associazioni, partiti, gruppi spontanei e hanno partecipato oltre 5.000 persone. Durante la manifestazione abbiamo incontrato Roberto Piana del Comitato referendario. Il Consiglio regionale, con un atto vergognoso, ha abolito interamente tutta la legge sulla caccia, legge che non riguarda solo la caccia ma anche la tutela della fauna, tutti gli istituti di protezione della fauna, al solo e dichiarato scopo di impedire il voto popolare. È un fatto gravissimo, il comitato promotore sta denunciando questa operazione veramente vergognosa, e abbiamo già presentato due ricorsi sia al TAR sia al governo e al capo dello Stato perché la legge venga inviata alla Corte Costituzionale e ne sia dichiarata l'incostituzionalità e si possa fare il referendum. Certamente allora lo faremo l'anno prossimo, però questa maggioranza di Cota e di Sacchetto se ne deve andare, non rappresenta più nessuno, non rappresenta più i cittadini, ha segnato una delle pagine più buie della democrazia nella nostra regione, nel nostro paese. Si è parlato molto dei costi del referendum. Innanzitutto, se il problema fosse stato costi, avrebbero dovuto abbinare il referendum alle elezioni amministrative e non l'hanno fatto. La questione dei costi è un paravento dietro la quale si nascondono per paura del voto popolare. D'altra parte, che la democrazia abbia dei costi è evidente. Allora non facciamo più le elezioni perché costano e sostituiamole con un sorteggio o un sondaggio, oppure proroghiamo il potere già chi c'è. È chiaro che in democrazia non si può impedire l'unica occasione per i cittadini di dire direttamente il loro pensiero sulle leggi approvate dal Consiglio regionale, quindi la questione dei costi non sussiste. Gualtiero Crovesio, comitato del referendum Caccia in Piemonte, come nasce l'idea di questa manifestazione? Questa manifestazione nasce il 4 maggio scorso, all'indomani della decisione presa dal Consiglio regionale del Piemonte, dalla sua sua maggioranza, di abrogare la legge regionale che regola la materia venatoria in Piemonte, sulla quale il referendum si sarebbe dovuto esprimere. Chiaramente, togliendo la materia su cui il referendum si esprime, il referendum non ha più seguito. Quindi nel momento in cui abbiamo saputo che la cancellazione del referendum di fatto era stata portata a termine, abbiamo deciso di convocare per la data in cui si sarebbe dovuto tenere il referendum questa manifestazione nazionale, a cui hanno aderito 5.000 persone provenienti da tutta Italia, e possiamo dire che la manifestazione è pienamente riuscita, anche perché si è tenuta in una giornata piuttosto difficile che segue il 2 giugno, una giornata di ponte, e sappiamo quanto sia difficile anche e soprattutto di questi tempi fare in modo che le persone chiamate ad esprimersi, a farsi vedere in prima persona per richiedere che la democrazia venga rispettata, cosa che sempre meno accade in questo paese, difficilmente reagiscono come dovrebbero. Avremmo dovuto essere 10 milioni in piazza oggi, siamo 5.000, una base di partenza, sicuramente ci saranno nuovi appuntamenti e la storia non finisce qui. La manifestazione ha riunito anche persone che vengono, diciamo così, da mondi diversi. La manifestazione è stata indetta dal comitato referendario Caccia Piemonte, che coinvolge 8 sigle storiche dell'animalismo e dell'ambientalismo piemontese, e poi dietro a queste sigle abbiamo trovato le associazioni, principali associazioni nazionali animaliste e ambientaliste, abbiamo trovato i movimenti che si occupano di ambiente e di diritti democratici, di diritti civili nel nostro paese, che oggi si sono trovate qui dietro al nostro striscione, abbiamo trovato molte sigle di partiti che ci hanno sostenuto nella battaglia regionale perché il referendum, come era normale che fosse, come era legale che fosse, fosse portato a termine e la data non fosse cancellata. Questa è una parte della manifestazione particolarmente interessante. In effetti non ci sono molti precedenti di manifestazioni convocate da associazioni animaliste e ambientaliste, nelle quali convergano anche partiti, associazioni e movimenti della società civile e che non direttamente c'entrano con le materie legate ai diritti degli animali e della difesa dell'ambiente. Quindi da questo punto di vista questo corteo molto composito segna, speriamo, una data d'inizio di una nuova forma di collaborazione più ampia da parte degli animalisti nel coinvolgimento dei movimenti che da animalisti e da ambientalisti non partono, ma che di fatto poi si trovano a condividere le nostre tematiche, e anche per noi, perché no, può essere una buona base di partenza per imparare qualche cosa dei movimenti che non si occupano principalmente dei nostri temi. Ed è questo il motivo per cui oggi in piazza non c'erano soltanto gli animalisti, ma c'erano i cittadini, c'erano i partiti, c'erano i rappresentanti della società civile, e da qui si parte per dire: nessuno da oggi in poi in Italia potrà in maniera proditoria, senza che i cittadini reagiscano, togliere ulteriori spazi di democrazia senza trovare una forte reazione, sempre più forte, democratica da parte dei cittadini. Dopo questa manifestazione come andrà avanti il comitato? Il comitato va avanti più vivo di prima, voteremo sicuramente l'anno prossimo e sicuramente noi otterremo giustizia come abbiamo combattuto per 25 anni, continueremo a combattere, e alla fine, quando la regione tirerà le somme, vedrà che gli sarà costato molto di più che non aver fatto il referendum. Sostiene Vallauri. La caccia ormai è un'anomalia giuridica per le ragioni che abbiamo già detto, perché cioè il codice penale punisce il maltrattamento e l'uccisione di animali senza necessità. Ma dal punto di vista etico, secondo me, è ingiustificata perché non c'è né legittima difesa, e ormai non siamo più assaliti dalle tigri, né stato di necessità. È rimasta un puro sport. Non siamo più nel paleolitico. E da un punto di vista, diciamo, etico-estetico, di bellezza dei comportamenti, purtroppo non c'è più assolutamente il coraggio. Poteva esserci nella caccia paleolitica al mammut, ma oggi mi sembra uno sport da vigliacchi, cioè una guerra a popolazioni inermi, a popolazioni civili indifese con armi assolutamente superiori a qualunque tipo di resistenza da parte delle vittime. Certamente c'è abilità, e quindi quando abbatti l'uccello al primo colpo ti senti ganzo, certamente c'è il piacere di mangiare, ma il coraggio dobbiamo proprio escluderlo nel modo più assoluto. Ancora dal punto di vista estetico, io non ci vedo niente di bello, cioè non riesco assolutamente a capire che gusto ci si prova a far morire agonizzando a volte atrocemente un essere vivente. Per me questo è un piacere disgustoso. Continuo sul piano estetico, mentre forse ai vecchi tempi, al tempo delle cacce dei re di Francia a decine e decine di cervi, ci poteva essere una grandiosità epica, adesso devo dire che se rimane qualcosa di estetico è il sublime nel ridicolo. Sto pensando alla caccia alla volpe, dove decine di uomini a cavallo con delle giacchette attillate di colore rosso e stivaletti di pelle animale, con corni da caccia, battitori, cani, si accaniscono contro un'unica volpe. Direi che lì, se uno dovesse immaginare la cosa più ridicola del mondo, la troverebbe forse proprio in questa caccia alla volpe. Veniamo al diritto. Il diritto punisce con il carcere chi per crudeltà o senza necessità uccide o maltratta gli animali. Sono gli articoli 544 bis e 544 ter del codice penale. Ora, la caccia oggi è certamente un'uccisione senza necessità. Forse non per crudeltà, ma un po' di sadismo c'è, sicuramente con crudeltà. Quindi il fatto che non si possa punire dipende da quelle anomalie del sistema giuridico che abbiamo già esaminato. Tra l'altro, il maltrattamento è punito in modo aggravato quando c'è anche la morte dell'animale maltrattato. E quindi, facendo un bilancio, a parte il gusto di uccidere e di mangiare per sport, non mi sembra né etica, né estetica, né giuridicamente difendibile. Sono decisamente a favore della sua abolizione. Mi dispiace per i cacciatori, spero che non dirigano verso di me i loro fucili e auguro la loro estinzione. Cioè, dovendo scegliere una specie a rischio di estinzione, preferisco che sia quella dei cacciatori piuttosto che quella delle specie cacciate. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Noi, cittadini inurbati, non abbiamo familiarità con gli animali rapaci e selvatici, ed è giusto così, anche per il loro bene. Ma a fare le spese della cementificazione, della modificazione del paesaggio, dell'intubamento dei corsi d'acqua, dell'inquinamento di aria e fiumi, della chimica che viene usata in agricoltura e, naturalmente, della caccia che tutt'oggi viene infaustamente consentita come sport, sono proprio loro, gli animali selvatici e i rapaci. Tali animali sono di proprietà demaniale e, diversamente da altri tipi di animali, il loro possesso è vietato. Chi ne trova uno è tenuto a consegnarlo immediatamente alla Guardia Forestale. A Vicchio, un piccolo gruppo di volontari appassionati di questo genere di animali ha deciso di aprire un centro recupero rapaci affiliato alla LIPU. Si tratta di un servizio imprescindibile per soccorrere uccelli e altri animali selvatici trovati ancora vivi dopo qualche tipo di incidente. Il centro ospita ogni anno un numero variabile fra i 250 e i 300 rapaci, più un enorme numero di nidiacei che vengono salvati e portati al centro in primavera-estate, nel periodo in cui si dischiudono le uova e i piccoli sono maggiormente a rischio. Inoltre il centro ospita uccelli posti sotto sequestro. Il recupero e il reinserimento in natura tocca il 60-70% dei casi. Per gli altri non c'è niente da fare. Per le menomazioni che riportano è necessario sopprimerli. È una decisione difficile e dolorosa, ma per un rapace, per un selvatico, vivere in gabbia è una sofferenza inaudita. L'incidente più ricorrente è l'impallinamento volontario da parte dei cacciatori, anche a specie protette. Poi ci sono le trappole dei bracconieri, gli investimenti in strada o comunque le collisioni con i mezzi a motore. Infine, i danni provocati dai cavi dell'alta tensione, specialmente a quei volatili che hanno una grande apertura alare, che le misure standard degli elettrodotti non hanno messo in conto. Al centro di Vicchio, pensate, non c'è nemmeno un bagno. chi ci lavora ha preferito devolvere le risorse sempre scarse a favore degli animali piuttosto che a favore del proprio comfort. Per nutrire un passerotto o un altro piccolo uccello caduto dal nido in età ancora non autonoma, occorre imboccare ogni 30 minuti il piccolo. Significa che i volontari portano gabbiette o scatole bucherellate con dentro gli animali anche al lavoro, ovunque siano, e con una siringa cercano di sopperire a quello che qualche cacciatore o qualche fatalità ha loro tolto, cioè una madre in grado di accudirli. Chi si occupa di questi animali non deve immaginare di avere contatti come con altri tipi di animali. In questo caso l'amore si esprime proprio evitando al massimo le carezze, per lasciarli più selvatici che si può, prevenendo quella dipendenza dall'uomo che una volta reinseriti in natura sarebbe loro fatale. Questo centro nasce dalla passione di due persone che raccolgono i primi animali e poi chiedono di essere riconosciuti a Parma come centro di recupero, fanno domanda alla provincia e in quel momento nasce il centro di recupero Bicchio del Mugello. Prima di fondare il centro arrivavano rapaci e venivano portati da noi su al centro di recupero nazionale che era su a Parma proprio. E da lì abbiamo deciso, perché portare tutto a chilometri e chilometri, proviamo a fare un primo centrino di prima accoglienza qui a Firenze per evitargli anche trasporti lunghi, e abbiamo cominciato con le specie un po' più semplici e più comuni qui da noi. Ci sono stati problemi, richiami da parte dei datori di lavoro, perché se uno passa giustamente non può rubare tempo al lavoro, però ormai abbiamo intrapreso questa cosa con la passione. Io lavoro part time anche proprio per venire qua, quindi mi sono scelta il part time per poter avere il tempo di venire qui. Cristina fa un lavoro un po' diverso, però si è scelta dei turni per cui riesce a ritagliarsi lo spazio per arrivare qui 2-3 volte la settimana. Però lei non può allevare i piccolini perché al lavoro ovviamente non è che ci si può mettere tutti lì. Ora io lo faccio perché lavoro un po' nel mio, però richiede tempo, insomma ogni mezz'ora uno è lì a imboccare gli uccellini, uno dice ma che ti paga a fare? Il cittadino pensa che per ogni cosa ci sia un'istituzione, un servizio. Mentre invece sappiamo benissimo anche per quelli fondamentali riguardo a noi, tante volte sono carenti, rimangono piuttosto sorpresi dal fatto che si è affidato tutto questo lavoro in mano a pochi volontari. Comunque ci sono molti supporti esterni, ragazze che fanno l'università, che si trovano la sera in un punto di raccolta, alle 19 al teatro tenda. Uno trova un uccellino, bisogna anche trovi il modo per portarci, insomma, bisogna essere un po' attivi, ecco. Sì. Animale tenuto a casa anche se trovato adulto, insomma poi la gente sta sempre lì a fargli bellino, che è istintivo, è naturale, però più che lo fai è più peggiori la situazione. Molti non sanno che l'animalino tirato su, imbeccato, non è che poi il giorno che è grande giusto per volare lo puoi buttare fuori, se non gli fai l'ambientamento è buttato via tempo, si imboccano e tutto, poi quando sono in grado di mangiare da soli dalla sciatolina vengono messi in voliera, poi viene aperta la voliera e loro entrano e escono, che se i primi tempi fuori non sono subito in grado di mangiare da sole, hanno comunque il supporto. Il posto dove tornare. Quindi voi dov'è che li rilasciate? Bisogna prendere l'animalino, guardare il numero dell'anello interno che gli mettiamo, dall'anello risaliamo all'animale, si sa da dove viene, se è possibile non troppo farraginoso si riporta lì, oppure se ci sono delle liberazioni pubbliche in zone protette o zone adatte alla specie si rimandano. Le condizioni devono essere favorevoli, perché nei primi giorni in libertà, almeno il clima, se c'è l'anello e lo riprende e si può vedere il percorso dell'animale, cioè è capitato appunto. C'è stata una poiana, ricordo, che era stata curata 17 anni prima nel centro di recupero di Parma, poi era stata inanellata e liberata, 17 anni dopo è tornata. In natura è sempre dura per tutti, però gli dà una possibilità. Cominciamo magari con qualche storia. Vedo qui per esempio davanti a noi c'è un magnifico corvo imperiale. Questo ha in comune, come tanti altri uccelli, il fatto che magari qualche persona si affeziona un po' troppo agli animali, gli dà un imprinting umano. Tra l'altro questi sono animali sociali, quindi nascono e vivono in un nucleo ben preciso. È difficile reintrodurli in natura. Non ci sono programmi di reintroduzione di animali. E lui come si chiama? Lui per ora si chiama Giovannino, finché rimane qui con noi. Giovannino da quanto tempo è qui? Sono 5 o 6 anni ormai. queste sono le nostre voliere per la didattica, sono le voliere che utilizziamo per far vedere alle persone per non usare le voliere del recupero proprio, perché gli animali in fase di recupero devono stare lontani il più possibile dalla presenza dell'uomo. Quindi questi poverini che vedete qui sono quelli che rimarranno qui da noi e verranno tra virgolette utilizzati come didattica, a scopo didattico, per non intaccare quelli che poi andranno fuori, insomma. E Giovannino cosa gli è successo? Perché è arrivato? Giovannino era stato trovato piccolo, non so dove, allevato a mano e imprintato ben bene, poi è arrivato in questo centro di recupero dove l'hanno messo insieme a una cornacchia, se l'è mangiata direttamente, loro non si sono sentiti più in grado di tenerlo e hanno cercato una nuova sistemazione, hanno chiesto a noi e noi, vabbè, lì in quel momento si è detto vabbè, abbiamo una voliera libera, proviamo. Però ci siamo resi conto che lui non sa di essere un corvo imperiale, pensa di essere una persona, cioè parla. Per lui a questo punto troviamo un centro di recupero che poi non è facile, che tiene corvi imperiali e ne ha altri, lui si dovrebbe riadattare alla sua stessa specie, capire chi è e poi insieme a questi essere reintrodotto in natura. Non è una cosa semplice, non qui da noi. Comunque gli animali selvatici possono essere anche carini all'inizio, ma sono sempre animali selvatici, quindi questo è un animale che può essere anche pericoloso. Qui vedo un riccio europeo, ma invece dentro... Erano 6, ma li abbiamo liberati ieri. Erano 7, una è rimasta perché è meno manca al momento. È arrivata sbranata da un cane. Per ora è sotto antibiotico, l'abbiamo ripulita tutta. Ora aspetta di crescere, viene da Firenze, viene dal Mugnone. Sì, sì. Paolo ha preso in collo il biancone che sta arrivando. Che meraviglia. Gli manca un'ala. Gli è proprio esplosa. Ormai è 10 anni che è qui con noi. Lui praticamente ha preso i fili dell'alta corrente con tutte e due le ali e quindi si è fulminato proprio. È arrivato con un'ala scoppiata, non c'era più nulla. Qui c'è una bella sfilza di allocchi. Allora, c'è un barbagianni infiltrato, ce ne sono altri, no, ma sono dentro le casine. Ah, guarda che belli, tutti in fila. Sì. C'è una si fila. Si mimetizzano uno sì, con l'altro. Sì, sì, non li avrei, non sarei riuscita a vederli. Cos'è questo gatto. Verso? Sembra quasi un gatto. È la ghiandaia che fa verso ai gatti. È la ghiandaia che fa verso ai gatti. Ma lei fa il verso ai gatti, fa il verso a noi, ci fa le nostre voci. Sì. No. Chiama il cane, Nello. Allora, stanno prendendo con le mani dei passerotti da dentro delle piccole gabbie. In teoria di solito non si prendono in mano. E da una siringhina gli trasmettono un cibo che è composto da? Ci sono dei mangimi apposta, sono degli sfarinati apposta per uccellini. Poi noi facciamo dei mix perché chiaramente non sono mai completi al 100%, quindi mescoliamo vari omogenizzati liofilizzati di carne, di frutta e poi queste pappine. Mai pane e latte, non è adatto agli uccellini perché chiaramente non sono mammiferi. Come emergenza, quando uno trova un animalino in difficoltà, la prima cosa può essere un pochino d'acqua e zucchero, fa bene sempre a tutti perché li ritira un po' su, magari uno li trova, sono in ipoglicemia o così, la gocciolina d'acqua e zucchero è sempre una cosa che aiuta. Poi piano piano si deve capire che animalino è, se è un insettivoro, se è un granivoro, perché chiaramente non si può dare le granaglie a un merlo, non si può dare la macinata a un piccione o a un passerotto, insomma, a meno che non siano animalini molto piccoli, devono avere una base di proteica a base di carne, perché molto spesso anche il passero, anche il cardellino o il verdone, che sono granivori, quando sono nei primi giorni di vita vengono alimentati con animalini lombrichi o insettini così. In voliera abbiamo sia animali che arrivano a noi direttamente dalla provincia di Firenze che animali che arrivano dagli altri centri, tipo il centro di Livorno, solo per la riabilitazione. Quindi loro li riabilitano, una volta finita la terapia vengono messi qui dentro per la riabilitazione al volo, dopodiché piumaggio a posto e muscolo rifatto, ripresi, possibilmente riliberati da dove vengono o in zone protette. Se doveste fare una richiesta, che cosa chiedete? Di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di volontari che devono venire, rendersi conto. Noi chiediamo alle persone di venire la domenica, magari vedere cosa facciamo, come lo facciamo, chi siamo. A quel punto uno decide sì, fa per me, no, non fa per me, grazie. Però una disponibilità programmata, bisogna aprire dei turni. Questo in termini di lavoro, poi diciamo in termini di risorse, di che cosa c'è bisogno? Abbiamo bisogno materiali, cibo. Cibo per gli uccelli che costa tantissimo, non sembra, ma le granaglie e queste cose qui sono quello che incide di più, quasi di di più che il cibo che si prende per i rapaci, cioè alimentare un piccione costa più che alimentare un allocco, per assurdo. E attrezzature, strutture, attrezzature per il giardinaggio, che tanto che stiamo sempre a rastrellare ci si rompe dopo un po' tutto, perché è un continuo, un uso continuo, quindi di tutto, proprio giornali, gabbie, gabbie grandi, rete. Eventualmente siete aperti al pubblico quando? Allora, l'apertura al pubblico la domenica pomeriggio, preferibilmente su appuntamento. Si può prendere appuntamento o telefonandoci o mandandoci una mail sul crrlipumugello@gmail.com. Oppure telefonare a? Al 347-8781-971. Ma al centro di Vicchio non ci sono solo rapaci e selvatici. La pecora era un'agnella salvata dal macello. Ma quanti anni ha? 12 anni. Di qualcosa! Prima scorazzava. Sì, prima sveglia e faceva branco con loro. Lei senza le oche non dorme, pensa di essere un'oca. E loro, se non c'è lei, non dormono. Mi soffiano! Come un gatto! L'invito a tutti gli ascoltatori e cittadini è di sostenere il Centro Rapaci di Vicchio, interessandosi alle sue attività e difficoltà, affinché con la crisi che stiamo attraversando e i tagli indiscriminati di risorse, questa meritoria realtà non sia costretta a scomparire. Troverete una lista accurata delle buone azioni per il Centro Rapaci di Vicchio nel nostro blog, incluso il bollettino per tesserarsi. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Oggi abbiamo deciso di parlarvi di Jonathan Franzen, scrittore e saggista statunitense che vive a New York, e di un suo articolo apparso originariamente sul New Yorker con il titolo Empty in the Skies, pubblicato da Internazionale nel marzo 2011 e ora disponibile a chiunque abbia voglia di leggerlo sul sito www.internazionale.it. Nel suo articolo Franzen descrive la carneficina che ogni primavera svuota i cieli, come recita il titolo inglese, del bacino del Mediterraneo, quando cacciatori e bracconieri, approfittando della migrazione di quasi 5 miliardi di uccelli che si spostano in massa dall'Africa per andare a riprodursi in Europa e in Asia, uccidono fino a 1 miliardo di questi volatili. Tutto questo nonostante che l'Unione Europea, sin dal 1979, si sia dotata di un importante strumento di tutela della fauna aviaria, con una direttiva che impone agli Stati membri di proteggere tutte le specie europee e di salvaguardarne l'habitat. Il fenomeno descritto da Franzen coinvolge in particolare l'Italia, definita addirittura una lunga e stretta forca caudina per i migratori alati. Malta, dove i cacciatori, circa il 3% della popolazione, considerano un proprio diritto sparare a qualunque uccello migratore, anche rapace di specie minacciate, che abbia la sfortuna di passare sopra l'isola, e Cipro, che cela dietro la sua facciata di ambita moderna meta turistica, il più grande sterminio di uccelli canori di tutta l'Unione Europea. Proprio a Cipro, Franzen si imbatte in una barbara pratica che affonda le sue origini nel Medioevo, la cattura di volatili utilizzando dei bastoncini di vischio. La capinera, uno dei silvidi più comuni d'Europa, è la vittima principale degli uccellatori ciprioti, ma la cattura accidentale di altre specie raggiunge proporzioni enormi, uccelli rari come le averle, specie più grandi e persino piccoli gufi e falchi. La maggior parte dei ciprioti, pur disapprovando l'uccellagione, non la considera una questione importante e infatti molti amano mangiare la capinera, che rappresenta un piatto tradizionale di Cipro. L'ultimo giorno di aprile del 2010 vado nella ricca cittadina turistica di Protaras per incontrare 4 membri di un'organizzazione tedesca per la protezione degli uccelli, il Committee Against Bird Slaughter, CABS, che organizza campi di volontariato stagionali nei paesi del Mediterraneo. Dato che a Cipro l'alta stagione per la cattura degli uccelli canori è l'autunno, quando i migratori diretti a sud hanno accumulato un bel po' di grasso dopo un'estate trascorsa a banchettare al nord, sono preoccupato di non riuscire a vedere nessun bracconiere in azione. E invece il primo frutteto in cui entriamo, di fianco a una strada trafficata, è pieno di bastoncini di vischio, stecchi di 70 cm, rivestiti di una sostanza collosa ricavata dalle prugne e disposte ad arte, come invitanti posatoi tra i rami degli alberi bassi. Gli attivisti del CABS, guidati da un giovane italiano magro e barbuto di nome Andrea Rutigliano, si sparpagliano nel frutteto, tirano giù i bastoncini, li rigirano nella terra per togliere la colla e li spezzano in due. Su tutti i bastoncini c'è attaccata qualche piuma. Su un albero di limoni troviamo un maschio di balia dal collare appeso a testa in giù. Sembra un frutto, ha la coda, le zampe, le ali bianche e nere immobilizzate dalla colla. Due attivisti si mettono al lavoro sotto il sole rovente per liberare la baia dal collare, scollando delicatamente le penne una per una, spruzzando piccole quantità di sapone diluito per ammorbidire la colla che resiste e trasalendo ogni volta che una penna va perduta. Poi Rutigliano rimuove con cura la colla dalle zampine dell'uccello. «Bisogna togliere ogni minima traccia di vischio», dice. «Il primo anno che facevo questo lavoro ne ho lasciato un po' sulla zampa di un uccello e l'ho visto volare via e restare di nuovo attaccato. Mi è toccato arrampicarmi sull'albero. Rutigliano mi mette la baia dal collare nelle mani. Io le apro e l'uccello vola via nel frutteto, riprendendo il suo viaggio verso nord». Here in my hand, now I got my heart. Here in my hands now. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Ricetta minimal etnica. Verdure indianate. Ingredienti: ortaggi misti, patate, zucchine, melanzane. Oddio! Ma la melanzana è fuori stagione! Per espiare dovrai leggere la guida al consumo critico, ma al contrario, dall'ultima pagina alla prima. Carote, cipolle, sedano, insomma tutti gli ortaggi misti o verdure che vi si vogliono che avete in casa o secondo la stagione o il vostro fornitore di fiducia. Abbiamo bisogno di spezie e tandoori, latte di soia, succo di limone, anacardi o mandorle, sale e olio. Preparazione. In una ciotolina morosa mettiamo un bicchiere di latte di soia, le spezie e tandoori, un pizzico di sale e il succo di un limone. E così prepariamo il latte cagliato, dove metteremo la frutta secca e tutte le nostre verdurine lavate e tagliate a cubetti, striscioline, bandierine, listarelle, ovidali, spirale, dadaiste, surrealiste, impressioniste, post-macchiaiole, insomma, come volete. Fate amalgamare il tutto per almeno 30 minuti. Accendete il forno a 200 gradi circa e mettete a cuocere le vostre verdure, che saranno rosse, dopo aver aggiunto naturalmente un po' d'olio extravergine d'oliva e, come si dice, tandoori di sera, bel tempo si spera. Coronerò finalmente il sogno di un incontro erotico indiano, misterioso, malizioso, sensuale e perverso. Ascella tandoori e alito fogna di Calcutta. La Camilla le spezie le usa inalandole, ecco l'effetto che fanno. Da aggiungere, visto che siamo in una cena indiana o in un pranzo indiano, una bevanda tipica, lassi salato ma vegano. Ingredienti: almeno un vasetto di yogurt di soia freddo, o meglio fresco, del sale, del cumino macinato. Ma sarà. Occorrono anche dei semi di sesamo tostati. Preparazione: versare lo yogurt in una caraffa, aggiungere un paio di pizzichi di sale, un'abbondante spolverata di cumino e un po' d'acqua. Con una frusta o con una semplice forchetta, rigirare delicatamente il tutto e valutate la fluidità del composto. Deve essere mediamente liquido, come una crema appena fatta e non freddata, o come un vino molto corposo. Quindi, se occorre, aggiungete altra acqua. Se necessario, aggiungere altro sale e altra polvere di cumino. Versare nei bicchieri e abbellire con pochi semi di sesamo tostati e un pizzico di cumino. E ricordate, sia a Delhi che a Firenze inquina meno chi si nutre vegano. E ricordate che, sia a Delhi che a Firenze, chi è vegano non resterà mai con il cerino in mano. E come diciamo sempre e ripetiamo fino allo spasimo, perché io sgrano vegano. E mercoledì prossimo prossimo, il 13 giugno alle ore 18 presso la libreria Mel Bookstore in via Cerretani, Lorenzo Guadagnucci intervisterà Giuseppe Coco nei panni di autore del capolavoro vegan letterario e culinario intitolato Il pasto gentile, edizioni Infinito, centinaia di pagine a una modica cifra, per sapere tutto sulla cucina naturale, buona, sana ed etica. Accorrete numerosi per avere il privilegio di una dedica autografa dell'autore. E al termine di questa trasmissione fate la cosa giusta, correte alla Sagra del Seitan. La sagra è in corso oggi presso il Circolo Ricreativo di Pozzolatico, via Imprunetana per Pozzolatico numero 227, comune di Impruneta, provincia di Firenze. Ci vediamo lì per gli squisiti manicaretti che Alessandra e Massimo, insieme a tante altre persone, cucineranno per noi. Inoltre c'è un ricco menù di appuntamenti culturali che vanno dalle 15.30 alle 18.30 non stop, e tra l'altro vi segnaliamo che alle ore 17.30 Lorenzo Guadagnucci intervisterà Lombardi Vallauri, il nostro filosofo animalista. Fotografie, interviste, approfondimenti, ricette, recensioni, tutti i contenuti di questa e delle precedenti trasmissioni, nonché il podcast di ogni puntata su restiamoanimali.wordpress.com. Commenti, critiche, ma anche consigli a restiamoanimali@controradio.it. Tre, due, uno, pull! Restiamo anatre e tutti gli altri animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali.